Il titolo di questa mia comunicazione è La conversazione educativa con gli strumenti del web 2.0. Cos'è del resto l'educazione se non conversazione? Pensiamo a Socrate che interrogava i passanti sulla piazza di Atene. Pensiamo a Platone che viveva con i suoi studenti continuamente conversando all'interno dell'Accademia. Pensiamo alla scuola peripatetica di Aristotele che chiacchierava, discorreva con i suoi discepoli passeggiando sotto i pergolati del Tempio di Apollo. Ebbene, la scuola riesce a essere luogo di conversazione? Io penso che nella ristrettezza dei tempi disponibili, nell'alternarsi delle ore di lezione di un insegnante con l'altro, nei tempi scanditi dalla campanella, la scuola spesso e volentieri, più che un luogo di conversazione, sia luogo di monologhi. Il lavoro che gli studenti fanno a casa o che gli insegnanti fanno a casa, ancora una volta, non vede una conversazione fra i due soggetti. Anticipo subito l'ipotesi di questo intervento. L'ipotesi è che l'uso degli strumenti del web 2.0 possa innescare un meccanismo di conversazione, di comunicazione dell'insegnante con i suoi studenti, degli studenti fra di loro e con l'insegnante, che nella sola aula scolastica non riesce ad avvenire. Vediamo cosa sono gli strumenti del web 2.0. Io ho messo qui le immagini di alcuni di questi strumenti, non magari i più importanti, semplicemente quelli che mi trovo ad usare di più io. Il web 2.0 è fatto intanto da strumenti che sono facili da usare. È fatto da strumenti che permettono la condivisione di contenuti, si pensi a YouTube, a Flickr, a SlideShare, è un luogo in cui i contenuti sono prodotti dagli utenti stessi ed è favorita la produzione dei contenuti, si pensi ancora ai siti che ho detto prima, o ai blog, o a Wikipedia, oppure i blog. Ancora, il web 2.0 è luogo di collaborazione. Anche in questo caso basti pensare semplicemente a Wikipedia. Ed è luogo di comunicazione fra persone. Si pensi a Facebook, si pensi a strumenti come quelli messi a disposizione da Skype e così via. Chiamiamo nativi digitali quei giovani che sono abituati a usare tutti questi strumenti nella loro vita quotidiana e sono abituati a usarli contemporaneamente. Quei giovani che, secondo le parole di Ardizzone Rivoltella, vivono, costruiscono e scambiano significati all'interno dei media delle ICT che sono la loro cultura. Quei giovani che, come ha scritto Mark Prensky, che è colui che ha introdotto questa terminologia nativi digitali, come risultato di questo complesso e articolato ambiente e all'intensità del volume delle loro interazioni con esso, pensano e gestiscono le informazioni in un modo completamente diverso dal passato, dai loro predecessori. Probabilmente i loro stessi thinking pattern, le loro stesse strutture mentali sono cambiate di conseguenza. È quello che, con altre parole, ha detto anche Richard Garner, che dice le intelligenze differiscono significativamente l'una dall'altra in dipendenza dal tipo di cultura in cui si sono sviluppate. Se in una cultura prealfabetizzata o in una cultura classica o o in una moderna dove il testo è essenziale, oppure in una postmoderna dove l'alfabetizzazione si riferisce a una varietà di segni che lavorano congiuntamente, talvolta in modo sinergico, talaltra in una caotica mescolanza. Ebbene, io penso che noi ci troviamo in una fortunata combinazione. C'è un bisogno, quello di una conversazione educativa, ci sono gli strumenti per questa conversazione, quelli del Web 2.0, e c'è un utente, il nativo digitale, che è preparato a utilizzare questi strumenti. Purtroppo manca in gran misura il quarto elemento, cioè quello di un insegnante preparato a usare questi strumenti, ma c'è sicuramente una fetta di insegnanti e quelli che partecipano a questo media show sono probabilmente fra di essi, che per quanto immigrante ha acquisito una capacità d'uso degli strumenti del Web 2.0 in generale, del computer e degli ambienti virtuali, e quindi li può usare con i propri studenti. Mi piace citare il professor Calvani, che all'apertura di Damatica 2008 ha detto: forse è il momento di passare dall'insegnare la tecnologia o con la tecnologia all'insegnare nella tecnologia. Insegnare la tecnologia significa insegnare come la si usa, sia da un punto di vista delle tecniche, sia dal punto di vista di una consapevolezza nell'uso. Insegnare con la tecnologia significa usarla per insegnare altri contenuti, per far acquisire competenze su un altro piano, per esempio usare strumenti audiovisivi per insegnare le lingue straniere, per esempio usare strumenti di simulazione per insegnare certi processi chimici. Insegnare nella tecnologia invece significa considerarla l'ambiente naturale in cui l'apprendimento si realizza. Dobbiamo vedere l'information technology, il web 2.0, come l'ambiente in cui si svolge la conversazione educativa fra gli studenti e gli insegnanti. Questo si combina con quella che è una vera e propria rivoluzione copernicana, il passare dalla centralità del docente alla centralità dello studente, dall'idea di insegnamento a quella dell'apprendimento, da una trasmissione della conoscenza basata su un modello comportamentista o cognitivista alla produzione di conoscenze secondo un modello costruttivista o connettivista, da un sistema gerarchico docente-studenti a un sistema reticolare in cui sia valorizzato il contributo dei pari all'apprendimento, dall'ordine sistematico, lineare e sequenziale al disordine permediale, dai tempi lunghi ai tempi brevi, dalla scuola come tortura alla scuola come gioco, dall'apprendimento formale alla contaminazione con l'informale e, insomma, dalla scuola tradizionale a quella che potremmo definire come scuola 2.0. Mi sia permesso inserire in questo discorso sull'uso degli strumenti 2.0 una piccola divagazione che riguarda due progetti a cui prendo parte, il progetto Teenagen e il progetto Ensemble, perché si tratta in entrambi i casi di progetti che afferiscono con questo cambiamento di modello e con l'uso degli strumenti del Web 2.0. Nel caso del progetto Teenagen, l'idea di fondo è quella relativa a far connettere gli insegnanti in modo da raggiungere gli studenti che sono già connessi. Nel caso del progetto Ensemble, la questione è relativa all'uso dei cellulari e dei podcast nella formazione, o per meglio dire in attività attorno alla scuola che riguardano l'integrazione delle popolazioni migranti. Ma sono semplicemente due dei tanti esempi che si possono fare relativi a come procedere nell'uso di strumenti informatici per la formazione e per questa conversazione educativa. Un primo strumento che possiamo usare, uno strumento che a me piace usare, è Moodle, un Learning Management System, che ha le caratteristiche di essere utilizzabile a livello di scuola, di permettere di strutturare percorsi didattici ordinati e formalizzati, quindi in un modo che forse piace di più a noi insegnanti abituati a un modello tradizionale in qualche modo di fare scuola, ma che può essere comunque riempito di strumenti i più diversificati, compresi strumenti che filmati, per esempio, che vengano da YouTube o da SlideShare. Uno strumento che permette di importare appunto materiali didattici e prodotti al di fuori di Moodle stesso, che ha la possibilità di forum di interazione fra le persone, che permette di tracciare le attività degli studenti, che è uno strumento realizzato con metodologia open source e che ha una forte comunità di utilizzatori. Si possono usare i blog, sono rispetto a Moodle uno strumento molto più informale, contemporaneamente gestibile dal singolo insegnante che non ha bisogno di una struttura di un server all'interno della scuola, che hanno anche loro la possibilità di inserire materiali formativi, materiali didattici, realizzati altrove o inseriti in altri ambienti web 2.0 come YouTube, che hanno anche loro la possibilità di mantenere attivo un dialogo comunicativo di domande e risposte con gli studenti. L'insegnante può farsi il blog, ma può anche chiedere agli studenti, collettivamente o individualmente, di aprire dei loro specifici blog. Un altro strumento sicuramente usabile è Google. Google, come sapete, non è soltanto un motore di ricerca, contiene tutta una serie di altri strumenti, io ne ho evidenziato solo alcuni, che sono quelli che uso. E Gmail come strumento di posta e quindi come strumento di comunicazione. I gruppi dove si può realizzare qualcosa di simile a una classe, un ambiente di lavoro con permessi in cui si possono pubblicare pagine web, inserire materiali, uploadare materiali e dove si possono aprire dei forum di discussione. Google ha lo strumento dei blog, Google ha lo strumento di calendario che può servire a un gruppo di lavoro, Google ha la possibilità di creare e modificare collettivamente una serie di documenti. Un altro strumento usabile è Skype. Skype è uno strumento essenzialmente per la comunicazione a voce. Pensate a momenti di formazione in rete in cui però sia possibile agli studenti interagire direttamente con gli insegnanti per fargli delle domande, perché magari l'insegnante di una lingua straniera e quindi è importante un elemento di educazione alla pronuncia o quant'altro. Voi sapete che è diffusissimo di questi tempi l'uso da parte degli studenti, ma molto spesso anche degli insegnanti di Facebook. Facebook è anch'esso uno strumento che può essere usato per la didattica. Si possono anche qui costruire delle piccole comunità in cui ci sono interazioni, in cui si scambiano informazioni, in cui si caricano e si discutono materiali e Facebook si può poi integrare con altri strumenti. Io su questo volevo porre un accento che mi sembra interessante. Spesso l'insegnante si pone il problema di lo studente si distrae. Se proviamo a usare come strumenti didattici, come Facebook, finisce che lo studente, invece di fare quello che dovrebbe, si distrae a fare altro. Io vorrei proporvi, perché appartiene all'esperienza che ho fatto, un altro modo di vedere questa cosa. E l'altro modo di vedere questa cosa è che lo studente può essere su Facebook, che gioca per conto suo, che scambia opinioni con amici e così via, e può essere l'insegnante che lo distrae da questa attività perché lo richiama a quelle che sono una serie di attività didattiche che devono essere fatte. Ancora, io credo che si debba e si possa usare didatticamente YouTube, perché YouTube è ricco di filmati di qualsiasi tipo, sia filmati specificamente didattici come esperimenti di fisica o altro, sia filmati in cui si parla inglese e quindi sono utilizzabili da un insegnante di lingua o francese o spagnolo. E qui c'è un valore specifico, che è il valore del filmato, del vedere le cose, che può aiutare a fissarle. Ma YouTube può anche essere usato per far fare agli studenti qualcosa. Cioè si può chiedere agli studenti di realizzare dei filmini, magari in classe durante la lezione, per riprendere un'esperienza di laboratorio, piuttosto che inventarsi una scenetta a proposito di qualcosa, inserire questi strumenti in YouTube e condividerli in questo modo con i loro compagni. La stessa cosa, lo stesso uso può essere fatto con SlideShare. Nella mia esperienza, per esempio, io ho molte volte fatto realizzare presentazioni degli studenti, perché penso che sia un modo utile per ragionare, per organizzare le idee, per articolare la combinazione di immagini e parole che si scrivono e discorso illustrativo che verrà fatto. Avevo spesso e volentieri la difficoltà, per questioni di tempi, a far sì che tutti gli studenti potessero fare la loro presentazione con i loro compagni. Ecco, SlideShare, in cui oltre a caricare la presentazione si può aggiungere la voce, può permettere di fare operazioni di questo tipo. Il wiki è sicuramente un altro strumento assolutamente utilizzabile per la didattica, sia il wiki inteso come Wikipedia, sia come fonte di informazioni, sia come luogo in cui andare a scrivere informazioni. Per esempio, si potrebbe far lavorare una classe a migliorare una serie di voci su un certo argomento, ma si possono anche aprire dei wiki specifici per una classe, per una materia, in cui far lavorare i propri studenti. Come dicevo, gli strumenti del web 2.0 sono estremamente facili da usare e ci sono offerte che permettono di crearsi degli ambienti in modo gratuito, e quindi con grande facilità e senza chiedere alla scuola che scriva lettere, che installi un server, che spenda dei soldi e così via, l'insegnante può agevolmente creare questi ambienti per i propri studenti. Un ulteriore esempio può essere Dipiti. Dipiti è un ambiente in cui si possono costruire delle timeline rispetto alle quali si inseriscono una serie di eventi, e questi eventi possono essere poi collegati a filmati messi su YouTube, materiale didattico caricato altrove, link e così via. Quindi penso possa essere usato per quelle materie in cui, come la storia della letteratura, come la storia dell'arte, c'è un andamento cronologico, può essere un qualcosa in cui far lavorare gli studenti e fargli condividere il lavoro che fanno, in un modo che è più coerente con le loro caratteristiche di nativi digitali, che è più divertente rispetto a una tradizionale lezione in cui è solo l'insegnante che parla, un compito soltanto scritto e così via. e che riesce a attivare quegli elementi di creatività che sono importanti nell'apprendere. Allora dico, le IT e il Web 2.0 possono essere l'ambiente in cui sviluppare la conversazione educativa. Il ruolo dell'insegnante, che io qui ho rappresentato con il maestro Jedi, è quello di saper scegliere di volta in volta gli strumenti che sono più adatti a questa conversazione educativa. Chiudo citando O'Reilly, colui che ha coniato questo termine Web 2.0, che dice che il Web 2.0 raccoglie tutta la potenza del web per mettere insieme l'intelligenza collettiva. Allora, io credo che l'uso del web per condividere materiali, percorsi, progetti didattici può servire anche per raccogliere l'intelligenza collettiva degli insegnanti e degli stessi studenti, facendo fare un salto di qualità ai sistemi educativi. Grazie per l'attenzione.